Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. I saluti vi vengono anche da Benedetta Acri, Laura Faggin, che sono in redazione, e Pietro Lacorte di là dal vetro a dare musica e ritmo a questa puntata. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi, per raggiungerci, per porre domande o commenti. La mail nessunluogo@radio24.it, cercateci su Facebook, il profilo è nessunluogolontano-radio24. Infine, se siete sintetici, potete cinguettare su Twitter nessunluogo24. Il titolo della puntata di oggi è La Cina dopo il 2012, titolo mutuato da un volume fresco di pubblicazione, e questa sera parleremo proprio di Cina. E lo facciamo con chi ha curato questo volume, la professoressa Marina Miranda, che insegna storia della Cina contemporanea alla Facoltà di Studi Orientali di Roma, alla Sapienza. Professoressa Miranda, buonasera, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buonasera. Allora, innanzitutto questo titolo, diciamo che cattura immediatamente l'attenzione, perché la Cina dopo il 2012 fa sorgere spontanea domanda: che cosa mai è accaduto in questa storia recente cinese che non è stata debitamente raccontata dai media occidentali? Guardi, la suggestione era un po' riprendere la profezia dei Maya, il 2012 anno cruciale. In realtà per la Cina è stato un anno cruciale, e in Occidente si è saputo dei due fatti fondamentali, che sono stati il 18° congresso del partito e poi lo scandalo Posilai. La verità che sta dietro a questo terremoto politico che ha sconvolto il sistema politico cinese, diciamo che è un po' diversa da quella che è stata propagandata al di fuori, perché questo scandalo è stato, diciamo, molto minimizzato, e si è fatto in modo che gli effetti che ci sono stati sulla riunione importante del partito non venissero, diciamo, considerati più di tanto. Insomma, la versione ufficiale è che tutto è rientrato e che tutto va bene come prima, insomma, meglio di prima, insomma, un caso isolato. Sì, ecco, poi entreremo meglio magari nel merito di questo grande scandalo politico, però già dalle sue prime parole sembra emergere, come dire, una grande carenza da parte dei media occidentali nella descrizione del colosso asiatico. Che cosa manca? Cos'è che non funziona quando un giornalista occidentale tenta di raccontare quello che accade a Pechino e non solo? Quello che non funziona, poi mi permetto di dire che forse particolarmente in Italia, che l'informazione è carente, perché nei paesi anglosassoni o in altri paesi europei a noi vicini, diciamo, c'è molta più informazione, c'è molto più interesse sulla Cina. Il problema è che si ci ferma molte volte a un livello superficiale, perché i cinesi sono anche molto bravi a fare in modo di selezionare e rendere accessibili quelle notizie, quegli eventi che loro stanno a cuore, di invece tenere molto più celati altri avvenimenti o altre realtà. Quindi diciamo che l'occidentale, che non dispone dei mezzi adeguati per attingere a tutta una serie di informazioni, rimane in superficie. Ecco, peraltro, professoressa, diciamo che la disaffezione in generale dei media italiani rispetto a ciò che accade oltre confine è abbastanza risaputa. È chiaro che poi, quando, come dire, si debbono percorrere migliaia e migliaia di chilometri, quando esiste una barriera linguistica che mi pare di comprendere è a dir poco ostica, allora è chiaro che la distanza, la frattura è certamente maggiore. Ma questo accade, voglio dire, e chi mi segue lo sa bene, accade molto di frequente anche per chi racconta l'Africa, ad esempio. Vi sono luoghi più distanti di altri, e l'obiettivo di questo programma è proprio di renderli un po' meno distanti. Cina dopo il 2012, a cura di Marina Miranda. È utile forse, professoressa, prima di addentrarci ancora di più nell'analisi di quello che è accaduto in questi ultimi due anni, forse tentare di abbattere alcuni luoghi comuni che proprio la distanza del paese continente continuano a offrire, no? Si parla sempre di grande potente economia, di inarrestabile ascesa. Questo colosso cinese ha dei miti che forse è utile sfatare per comprenderlo meglio. Sì, in realtà il colosso, diciamo, sa pubblicizzarsi molto bene all'esterno e fa parte della politica di soft power che la Cina usa in maniera molto intelligente e brillante. I miti da sfatare sono anche quelli della imbattibilità dell'economia cinese, che ha una serie di problemi, però insomma gli analisti occidentali sono in grado di fornirne delle analisi, pochi, devo confessare, poco in Italia, ma comunque sì. In Italia si tende, diciamo, a glorificare, diciamo, il modello. E poi i cinesi sono stati anche bravi a pubblicizzare se stessi come un modello. Non a caso negli anni passati si è tanto parlato di questo cosiddetto modello Cina. Tra l'altro ho una pubblicazione precedente con la stessa casa editrice che parlava appunto di questo modello Cina e della plausibilità dell'esistenza di questo modello Cina. Quindi loro hanno posto sempre grande attenzione sul far vedere le luci sfavillanti di questa crescita economica, di questo sviluppo incredibile, e nel tenere, diciamo, molto più nascoste le zone d'ombra. Insomma, professoressa Miranda, mi pare di capire che un signor marketing paese, contribuisca a mettere in luce quelle che sono le grandi virtù, le grandi punte di eccellenza cinesi, e a magari nascondere quelle che sono le tante ombre, come spesso accade in qualsiasi realtà che noi andiamo a analizzare. Insomma, e proprio questo mi dà il destro per farle un'altra domanda, che è: noi parliamo di Cina, ma forse sono tante Cine quelle che davanti agli occhi di un ricercatore, di un analista, di un insegnante si palesano. Sì, assolutamente sì. Mi permetta solo di fare una piccola integrazione, che il modello che loro esportano non è soltanto economico, ma ha una valenza in più che è culturale. Quindi loro ci tengono ad esportare non solo un modello di grande successo dal punto di vista economico, ma una grande forza culturale, attingendo anche alla loro cultura passata, che per secoli la cultura cinese è stata fonte di irradiazione in Estremo Oriente. Poi magari ci ritorniamo su questo, che è un aspetto molto importante. Sì. È anche molto importante quello che lei diceva sull'esistenza di tante Cine, perché la Cina è un continente, assolutamente. Basti pensare che l'Italia è grande come la provincia dello Shandong, per esempio, quindi, diciamo, come proporzioni e come stessimo parlando dell'Europa. Sì. E le differenze devono essere fatte per quanto riguarda i grandi centri, quindi Pechino, Shanghai, sono delle Canton, sono delle realtà a parte. Poi ci sono i centri minori, e tra questi bisogna far differenza tra quelli che sono posizionati nelle province costiere sudorientali e i centri minori che possono essere in province più centrali del paese. Una differenza ancora va fatta in queste zone tra piccoli centri e campagna, perché le campagne costituiscono, soprattutto dopo la politica di decollettivizzazione e a seguito del processo di demaoizzazione che c'è stato in Cina, costituiscono le realtà più arretrate. Sì. In tutto questo bisogna considerare anche le zone occidentali, che sono, sia per quanto riguarda le città ma anche per le campagne, abbastanza, diciamo, arretrate, nonostante il governo negli anni passati abbia lanciato delle politiche, la cosiddetta politica Go West, proprio per cercare di sanare questi squilibri. In realtà i 10 anni dell'amministrazione precedente di Hu Jintao e Wen Jiabao non sono riusciti, diciamo, a porre rimedio tra i tanti problemi, anche quello dello squilibrio, ecco, tra città e campagna. Un paese, continente, giustamente ricordava, ricco di contraddizioni, come spesso accade, nessun luogo lontano, tentiamo di dare i numeri proprio per mettere in luce queste contraddizioni. km2 è l'estensione della Cina, di poco inferiore a quella dell'intera Europa. 1.351.000 è il numero di persone che abitano nel paese, pari al 19,5% della popolazione mondiale. Uno è il numero dei partiti. Esiste solo il Partito Comunista Cinese. 82,6 milioni, il numero dei cinesi iscritti al Partito Comunista. Più 2,9% l'incremento del numero di iscritti al CPC dal 2011 al 2012. 23 milioni gli abitanti di Shanghai, la città più popolosa della Cina. 8 è il numero delle megalopoli cinesi. Quasi tutte ospitano 10 milioni di abitanti o più. Sono Canton, Guangzhou, Nanchino, Pechino, Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Wuhan. 50% circa è la previsione per il rapporto debito pubblico PIL per la prima parte del 2013. Più 7,7% la crescita dell'economia cinese nel 2013, rallentata rispetto alle stime dell'8% fatte dagli analisti. Più 4,9% l'aumento delle esportazioni nell'aprile 2013, dato fortemente negativo se paragonato al più 8,9% registrato nel mese di marzo. Più 0,3% il dato delle importazioni dell'aprile 2013, di contro al più 5,3% del mese precedente. 18,4 miliardi di dollari. Il surplus commerciale del Dragone, quasi il doppio rispetto ai 9,9 miliardi previsti dal ministro del commercio cinese, Chen Deming. Ecco, questi i numeri del paese continente Cina che danno un'idea del colosso asiatico e anche delle contraddizioni che l'amministrazione è chiamata in qualche modo a risolvere. Entriamo in uno dei fatti raccontati nel libro La Cina dopo il 2012, curato da Marina Miranda, che insegna storia della Cina contemporanea alla Facoltà degli Studi Orientali di Roma, La Sapienza. Professoressa Miranda, lo scandalo Boxilai è stato raccontato anche in Italia, ha destato parecchio scalpore. Proviamo a ricapitolare un po' chi era Boxilai. Chi è Boxilai? Che figura è e perché questo scandalo? Sì, anzitutto vorrei sottolineare questo, che la differenza tra quello che è stato lo scandalo Boxilai e quello che la stampa e anche gli organi di stampa vicini al partito hanno voluto sottolineare è che secondo loro lo scandalo Boxilai sia stato un'eccezione, cioè Boxilai è stato poi dipinto come l'unica mela marcia che è, appunto, che è stato isolato, messo da parte, combattuto eccetera. Il problema molto più importante è che Boxilai non è l'unico caso, ma è stato soltanto la punta dell'iceberg di tutto un sistema di corruzione e di grandi privilegi che alcuni funzionari, proprio in virtù delle loro posizioni politiche ma anche dei legami familiari e dei rapporti che intessono all'interno della struttura dove si sovrappone partito e Stato, hanno attualmente nel sistema della Repubblica Popolare Cinese. Assolutamente il nuovo leader che è stato eletto al congresso, Xi Jinping, sta ponendo grande attenzione sul problema della corruzione, però diciamo questo era stato un tema caro anche all'amministrazione precedente e non mi sembra che sia stato fatto molto. Comunque, sì, ricapitolando, Boxilai è figlio di un veterano della lunga marcia, quindi di quegli eroi del Partito Comunista Cinese che hanno collaborato anche con Mao e per questo diciamo ha avuto una carriera politica diversa da altri suoi colleghi. L'attenzione internazionale è stata attirata sul personaggio Boxilai quando lui, essendo segretario generale della municipalità di Chongqing, che è una grandissima, enorme metropoli nella provincia dello Sichuan, quindi una provincia un po' più interna a sud-ovest del paese, ha cominciato a lanciare una campagna molto particolare, quella di colpire i neri e cantare le canzoni rosse, cioè una dura campagna di repressione contro le triadi locali, sì, la malattia, ecco, locale. Professoressa, la interrompo perché dobbiamo spiegare i neri che nessuno venga in mente che si stiamo riferendo agli africani, alle persone di colore. I neri sono appunto i rappresentanti della mafia locale. Nessun luogo è lontano. Ancora a parlare di Cina, la Cina più recente, quella dal 2012 in poi, oggetto di questo volume curato dalla professoressa Miranda, che poco prima della pausa stava iniziando a pennellare questa controversa figura di Boxilai, quello che dal 2008, come racconta appunto il libro, si mise a cantare la gloria dei rossi e colpire gli elementi neri, cioè i membri della mafia e delle triadi locali. E come dire, fa stupore, stupisce che poi proprio lui, che fu alfiere di quella campagna, fu coinvolto in questo scandalo di corruzione che tanto eco ha avuto. Professoressa Miranda, continuiamo nel tratteggiare questa controversa figura. Sì. La spregiudicatezza di Boxilai sta nel fatto di aver utilizzato quello che è un patrimonio, diciamo, del Partito Comunista Cinese che appartiene all'epoca maoista, e quindi di fare delle grandi adunate oceaniche negli stadi con bandiere rosse, cantando anche le canzoni di quel periodo, per risvegliare anche un sentimento patriottico, quindi per riportare alla luce quelle che erano un po' i sentimenti, anche quindi facendo leva anche sui sentimenti delle persone che durante il periodo maoista erano stati giovani, quindi attingendo a questo potenziale che è un patrimonio, diciamo, del partito. E Posilai ha avuto molto successo facendo questo. Quello che è emerso è che poi sua moglie invece è stata coinvolta in questo scandalo che riguarda la morte di questo uomo d'affari britannico che lavorava con loro. E la spregiudicatezza di Posilai c'è anche quando a febbraio dell'anno scorso il suo più stretto collaboratore e capo della polizia di Chungcheong, Wang Lingjun, cerca rifugio nel consolato americano di Chengdu, creando non poco disagio ai funzionari locali, i quali non si aspettavano di dover gestire una patata bollente così grossa, perché Wan si rende conto che Posilai sta per colpire lui, in quanto Wan sa di questo scandalo, stanno emergendo dei fatti e praticamente è il primo a doverne subire le conseguenze, perciò a questo punto cerca asilo politico. Comunque è una spy story molto molto intricata e molto particolare. Fra l'altro, no, professore, se la interrompo, perché citavamo il caso appunto della moglie Gu Kailai, incriminata per omicidio di questo uomo d'affari, e se vogliamo è stato un po' quello il grimaldello che ha attizzato la curiosità dei media stranieri, no? Perché c'era un grandissimo uomo politico così potente, appunto coinvolto in casi di corruzione, e allo stesso tempo la moglie accusata di omicidio. Insomma, lei citava il modello, no, della spy story, c'erano tutti gli ingredienti per far accorrere tutti i giornalisti a caccia di storie, diciamo, golose. Questo scandalo ha mostrato una crepa nel sistema, ha mostrato come dire, i lati più oscuri? No, perché i cinesi sono stati bravi ancora una volta nel demonizzare la donna, quindi se si guarda tutto l'accaduto si vede che alla fine l'unica ad essere stata processata è la moglie, quindi c'è sempre un po' questa tendenza a demonizzare donna demone, corrottissima, pare che avesse rapporti con questo straniero addirittura, cioè, tra l'altro la moglie è un famoso avvocato, quindi che forse è depressa quando ha dovuto lasciare l'attività per seguire il marito a Chungcheong, ma è una donna che negli Stati Uniti ha seguito anche dei processi importanti, quindi non era la casalinga così. Comunque è stata sprovveduta, insomma, lei dice, aveva anche strumenti giuridici, non era... No, assolutamente sì, è una donna in gamba che è stata però demonizzata, quindi è lei che ha subito processo, il marito non ha ancora subito processo, anche se è stato espulso dal partito e il suo caso è stato inviato alle autorità giudiziarie, però appunto il Partito Comunista Cinese è stato molto bravo nel fare in modo che questo sembrasse un caso isolato, cioè la punta dell'iceberg. Sì, la corruzione ormai è un tema di cui non si può non parlare, il partito ne ha accettato l'esistenza anche se prima era un tabù in realtà, però sono stati molto bravi a confinare molti particolari e non a portarli alla luce tutti, perché ci sono molti interrogativi che non sono stati svelati. In realtà noi non sappiamo veramente come sono andate le cose. E questo, diciamo, rimane un grandissimo punto di domanda, rimane una delle caratteristiche forse di impenetrabilità, no? di questo grande paese continente, e questo libro, La Cina dopo il 2012, contribuisce in qualche modo a entrare nei meandri, nei chiaroscuri di quello che è accaduto nella recente storia cinese. Uno dei fatti non così recente, ormai abbastanza datato e consolidato, è una Cina, una Pechino che si guarda attorno per approvvigionarsi di materie prime, si guarda attorno per andare alla caccia di nuovi mercati, e da tempo, ormai da parecchi anni, si parla di presenza cinese in Africa. insomma, il dibattito, dicevo, è aperto da parecchi anni. C'è chi lo dice, lo definisce neocolonialismo, c'è chi è un po' più morbido nella presa di posizione, nell'accettare la massiccia presenza cinese nel continente nero. E tra questi, ad esempio, c'è una pensatrice africana, Dambisa Moyo, che alla fine, più realista del re, dice: beh, insomma, l'Africa ha bisogno di denaro, ha bisogno di soldi, ha bisogno di sviluppo, e la Cina offre tutto questo. Professoressa Miranda, lei di che avviso è? Lo vede come neocolonialismo o, come dire, più morbida nella sua posizione? Ma io la vedo come una grande manifestazione del soft power cinese attuale, in realtà, perché la Cina, in realtà, che è abituata da anni di pianificazione rispetto a noi che, soprattutto dal punto di vista economico, campiamo un po' alla giornata, da tempo sta cercando di programmare quello che è il futuro, purtroppo, che è anche quello di acquistare terra arabile. E per esempio in America Latina i cinesi anche sono in grande espansione, in Africa per esempio si stanno appropriando delle materie prime di questo continente, cioè si sono sostituiti agli europei in realtà. E come gli europei, sappiamo, nei secoli precedenti hanno causato non pochi disastri nel continente africano, i cinesi non credo che facciano più attenzione o siano più morbidi, anche perché nel loro voler esportare questo modello Cina riescono anche a dialogare con dittatori o con personaggi africani a cui gli occidentali, per esempio, almeno sulla carta, pongono qualche veto oppure fanno qualche appunto rispetto alla tutela dei diritti umani, eccetera, eccetera. Questo non è un argomento che ai cinesi interessa, perché la linea di Pechino è quella che i diritti umani non sono dei valori universali. Le voci che sentite sono quelle di alcuni lavoratori che sono a Dakar, sono lavoratori cinesi a Dakar. È un estratto di un documentario che si intitola China in Africa, è stato prodotto da Al Jazeera, e quella che avete sentito, gli applausi, era il benvenuto ai nuovi lavoratori cinesi, appunto, che andavano a Dakar. La professoressa Miranda diceva: sì, la Cina va in Africa a depredare delle sue risorse, però vi sono anche casi di produttività. La delocalizzazione è una delle nuove strade che la Cina sta percorrendo. C'è questo distretto, ad esempio, calzaturiero vicino ad Addis Abeba in Etiopia, dove vengono prodotti marchi di lusso. This is my shoe factory in Ethiopia. We produce 2000 pairs of shoes every day. Today I'm very proud to tell you, on January the 5th, 600 workers, 2 production lines, all new brand machines. E in questo documentario della CNN, dove si racconta un po' l'avventura industriale del Huajian Group, che è appunto un produttore di scarpe cinesi che però produce anche per marchi molto noti come Tommy Hilfiger, insomma, qua si celebra la creazione di 600 nuovi posti di lavoro. Questa è un po' la strada con cui una Pechino molto spregiudicata, perché va a dialogare tranquillamente con dittatori africani, cosa che magari gli occidentali e gli europei a volte si fanno qualche remora. Però questo fatto della delocalizzazione, dell'impiegare soprattutto manodopera locale, insomma, può essere considerato un esempio di quel soft power, così soft che va, insomma, a incidere prepotentemente anche sull'economia africana. Professoressa Miranda, prima di ringraziarla e lasciarla al suo lavoro, le chiederei in estrema sintesi una previsione, diciamo. Strofiniamo la sfera di cristallo. Secondo lei l'Africa rimarrà la grande nuova frontiera ancora per gli anni a venire, per una Cina che si guarda attorno e che mira allo sviluppo, oppure vi sono altre nuove frontiere a cui Pechino guarda? L'Africa rimarrà tale nuova frontiera, ma c'è anche l'America Latina. E poi, vabbè, è vero che i cinesi, facendo sviluppare delle realtà locali, portano benessere, portano ricchezza e portano a migliorare anche il tenore di vita di queste popolazioni. E il problema è che poi un giorno bisognerà vedere anche le condizioni di lavoro che i cinesi portano, perché anche all'interno del loro paese ci sono realtà dove appunto il costo del lavoro, certo, le condizioni di lavoro lavoro non sono assolutamente rispettate. Certo. Io penso che la Cina sia molto avanti nel prevedere gli sviluppi anche dell'economia mondiale, strategicamente sono molto molto agguerriti e preparati, dove l'Europa non arriva, ecco. Diciamo, lungimiranza, la parola d'ordine. Grazie alla professoressa Marina Miranda per essere stata con noi. Ricordo il suo libro, La Cina dopo il 2012. Buona serata e buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. E in questa puntata tutta dedicata alla recentissima storia cinese vi faccio fare un salto temporale oltre che spaziale, perché non solo siamo a Pechino e ci andiamo con Edoardo Gagliardi, dottore di ricerca e sinologo alla Sapienza di Roma. Dottor Gagliardi, buonasera, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buonasera, buonasera a tutti. Diciamo, il salto temporale invece ve l'ho fatto fare perché le musiche, i suoni che avete udito sono quelli del trailer di un film che si intitola 1911 e che celebra in pompa magna la rivoluzione appunto del 1911, Jackie Chan tra i protagonisti, ed è una componente fondamentale di quella che è la, come dire, la simbologia, la liturgia anche cinese, che è così attenta all'immagine, così attenta alla celebrazione dei grandi eventi storici. Dottor Gagliardi, quanto è fondamentale questa componente? Allora sì, diciamo che anche dal 2009 al 2011 c'è stato un periodo di grandi anniversari, dalla fondazione della Repubblica Popolare, la ricorrenza della fondazione del Partito Comunista, fino ai 100 anni della rivoluzione Xinhai. Quindi in questi anni ci sono stati grandi anniversari importanti per la Cina, non solo la Cina popolare ma anche poi Taiwan, Hong Kong eccetera. Comunque ci sono stati quindi e sono stati celebrati con questi grandi, in questo nuovo formato, in questi grandi film colossali che non solo erano un grande budget, grandi anche, come avete sentito forse dal trailer, musiche epiche, esplosioni, scene di guerra, ma anche tantissime star proprio per attirare un pubblico sempre più giovane. Quindi questo è stato un nuovo formato che è emerso in questi anni per celebrare questi anniversari. Nessun luogo è lontano. E anche qui potete sentire, insomma, con quanta epica viene raccontata la fondazione del Partito Comunista Cinese in un altro film che è The Beginning of the Great Revival. Siamo col dottor Edoardo Gagliardi, sinologo, dottore di ricerca alla Sapienza a Roma, che in questo momento è a Pechino, e stiamo cercando di comprendere meglio quanto l'epica cinematografica faccia parte della presentazione, del marketing, del modello cinese. Non c'è solo questo, non c'è solo il cinema di propaganda, ma esiste una grandissima industria cinematografica che va a raccontare anche tematiche molto più vicine alla vita quotidiana e fanno quelle che potrebbero suonare come dei cinepanettoni. Allora sì, diciamo che ai cinesi comunque piace la commedia, questo lo ha capito già Feng Xiaogan, un grandissimo regista, almeno grandissimo qui in Cina, magari poco conosciuto in Europa, anche se il Festival di Roma ha presentato il suo ultimo film l'anno scorso. E Feng Xiaogan, lui ha inventato proprio questo suepien, questi cinepanettoni, queste commedie che di ambito contemporaneo che uscivano durante il Capodanno cinese, che è come il nostro Natale, la sì, grande festa nazionale. E commedie che avevano un successo unico, spesso lanciavano attori, nuove mode, nuovi stili, tra cui appunto non a caso un film che avevo proprio Cell Phone, in cui proprio cercava di intravedere la nuova nevrosi contemporanea della società moderna proprio nell'uso del cellulare. Sì. Però quest'anno c'è stato anche addirittura un nuovo trend in cui si è forse capito che il modello hollywoodiano dei grandi colossal, tra cui forse uno degli ultimi è stato proprio quello Xinhai e forse della celebrazione del partito, sono questi colossal forse un modello che non funziona più, che forse si sta capendo che in realtà sono proprio le commedie contemporanee, che non è solo un modello applicabile o comunque di successo solo durante il Capodanno cinese, ma che può funzionare tutto l'anno e per un pubblico sempre più giovane e che è sempre più votato all'intrattenimento e che forse addirittura è sempre più stanco di vedere i soliti film di sola azione, di soli effetti speciali e magari in 3D che è comunque una tecnologia che era forse sorpassata già quando è uscita, e però forse il grande pubblico si sta anche un po' stancando. E quindi, per esempio, quest'anno è uscito questo film, piccolo film medio budget, Lost in Thailand, che per esempio ha avuto un grandissimo successo. Una commedia non proprio raffinatissima, abbastanza semplice, con degli attori, diciamo, di un certo successo, realizzata da un regista molto giovane, che comunque ha avuto un grandissimo riscontro al botteghino, e ora molti produttori e distributori in Cina si stanno interrogando su come fare. Forse il modello di Hollywood è un po' da abbandonare, da mettere da parte, e bisogna guardare un po' a un nuovo tipo di film. Allora, gentili ascoltatori, non è la rosa purpura del Cairo, state tranquilli, non stiamo rubando il mestiere a Franco D'Assisi, e semplicemente stiamo indagando quella che l'industria cinematografica cinese propone. Da un lato il grande cinema di propaganda, quindi una parte di quel grande ingranaggio che presenta il modello cinese, le grandi operazioni di marketing di questo paese continente, dall'altro invece quello che è il cinema pop, e quindi più fruibile da parte di un pubblico che, ricordava il nostro ospite Edoardo Gagliardi da Pechino, è un pubblico giovane, un pubblico attento, un po' stufo forse della macchina hollywoodiana, e alla ricerca di una propria cifra anche stilistica. Però vorrei tornare, dottor Gagliardi, su questo aspetto che mi sembra comunque importante, la celebrazione dei grandi eventi politici, no? Gli anniversari, quanto il botteghino aiuta a imporre un'ideologia politica, o forse non è proprio questo il meccanismo, ci aiuti a capire meglio. Dunque, il meccanismo è un po' complicato. Diciamo che il cinema in Cina è un'espressione di una forte industria culturale, che però è un'industria culturale anche molto centralizzata. Diciamo che il cinema cinese si è aperto agli investitori e produttori privati solo negli anni 90, nell'ambito delle grandissime riforme che hanno portato al miracolo economico cinese che abbiamo sotto gli occhi, e nel cinema anche è stata un'enorme rivoluzione. Però diciamo che passa ancora tutto attraverso, diciamo, degli organismi di controllo anche a livello proprio produttivo e distributivo, che sono sì commerciali ma che sono allo stesso tempo centralizzati e comunque controllati dal partito, e in più ovviamente c'è anche la censura, ma questo è un altro discorso. Diciamo che nel caso anche di questi film celebrativi sulla fondazione del partito, il mercato è stato leggermente alterato, non sono stati distribuiti grandi film in quel periodo, sono stati offerti molti biglietti gratuiti, sono stati bloccati alcuni siti dove gli utenti potevano dare un giudizio al film, sì. Quindi ovviamente all'inizio erano moltissimi giudizi negativi, anche molto sarcastici, che sono poi spariti dopo pochi giorni, e quindi diciamo il mercato è stato pilotato. Però in generale quello che qui viene ripetuto come un mantra, diciamo, dall'industria cinematografica cinese è questa parola Piofan, che è appunto il box office, ovvero quanto riusciamo a raggiungere Piofan. Quindi diciamo che un box office che ogni anno cresce, che addirittura quest'anno in soli 6 mesi ha raggiunto e superato la cifra totale del 2010, quindi già vediamo anche il tasso di crescita, sì, che credo che era intorno ai 10 miliardi di RMB. E quindi questo box office è comunque anche uno strumento per dire: vedete, la nostra industria cresce ed è sana, ed è forse anche grazie alle nostre misure politiche. Quindi in un certo senso il box office non impone un'ideologia, ma la legittima. Una legittimazione non solo dell'ideologia, scusate, politica, ma anche dell'efficienza dell'industria cinematografica. Un'ultimissima domanda, dottor Gagliardi, prima di lasciarle alla notte pechinese, è questa: quanto veloce è la macchina cinematografica, i gusti, quanto veloci sono i cambiamenti in questa Cina? Lei fra l'altro è autore di uno dei saggi, appunto, di questo libro, La Cina dopo il 2012, curato dalla professoressa Miranda, e si occupa proprio di questo, no? Del colossal di propaganda. Quanto il gusto cinese è veloce, quanto questa Cina si evolve così rapidamente? Evolve molto rapidamente. Diciamo, con la professoressa Miranda abbiamo cercato di andare a vedere nel passato per cercare di così intravedere il futuro, e questo è un metodo che si fa, perché a volte, soprattutto in Cina, alcune cose sono molto sfuggenti e difficili da interpretare, però vedendo, diciamo, in un certo senso come viene celebrato il passato, si può intravedere quella che sarà la direzione immediata, soprattutto a livello centrale e politico. In generale, per quanto riguarda la cinematografia, i cambiamenti sono molto veloci, qui non si perde tempo e si cerca soprattutto di mantenere un ritmo di crescita continua e soprattutto si cerca di intravedere anche i gusti del pubblico, di anticiparli. Per questo, come avevo anticipato, come avevo detto prima, Lost in Thailand è stato un fenomeno che ha fatto riflettere molti produttori, non solo per, come dire, lucrare forse come effetto di exploitation su questo fenomeno, ma proprio per cercare di intravedere forse una tendenza nuova e un target di pubblico probabilmente nuovo. Qui c'è una generazione di ragazzi nati negli anni 90 che comunque hanno un profilo molto specifico, che comunque sono a tutt'oggi i più grandi spettatori, o comunque sì, i più numerosi, giovanissimi, sì, per vari motivi, sì, e quindi sono loro che comunque decideranno le sorti del mercato. I produttori cercheranno di seguire i loro gusti e di accontentarli in tutti i modi. Certo. Quindi diciamo il cambiamento è veloce. Ovviamente questo è un fenomeno recente di queste commedie e che comunque sembra già molto distante dalle celebrazioni nazionali di cui si è parlato, ma non vuol dire che questi anniversari o il peso della storia e della politica siano comunque distanti. Probabilmente questa è una nuova tendenza che dovremo comunque vedere dove andrà a finire. Sicuramente la Cina è un paese, soprattutto almeno di quello che io posso vedere nell'ambito cinematografico, un paese in continua evoluzione anche alla ricerca di se stessa, e quindi sta cercando sempre una via con un'identità sempre più propria, che se prima ha copiato il modello statunitense hollywoodiano, adesso probabilmente sta cercando di creare un modello tutto suo, sì, e quindi staremo a vedere dove andrà a finire. Grazie al dottor Edoardo Gagliardi. Grazie a voi. Sinologo, dottore di ricerca alla Sapienza di Roma, buona serata e buon lavoro. Un saluto da Pechino. E non mi resta che ringraziare Benedetta Acri, Laura Faggin, che hanno confezionato con me questa puntata, Pietro Lacorte, che le ha dato musica e ritmo, voi per essere stati all'ascolto. Vi ricordo che ci potete raggiungere su Facebook, alla pagina, Nessun Luogo Lontano - Radio 24, cliccate mi piace se vi siete goduti anche questa puntata. Vi ricordo la replica domenica ore 22 in versione XL extra large, con in più un reportage tutto da ascoltare, altrimenti l'appuntamento è per sabato prossimo ore 19:15. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.